Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi affrontiamo un tema sul quale stiamo riflettendo da qualche giorno, sollecitati direttamente anche da voi ascoltatori, oltre che dalla cronaca finanziaria delle ultime settimane. Però, insomma, prima di andare a toccare questo argomento, abbiamo ritenuto di prenderci qualche un po' di tempo prima di esaminarlo insieme a qualche ospite, per tante ragioni. Parliamo di Fiat, non del referendum di Mirafiori, perché l'argomento lo lasciamo ai colleghi del giornale radio e ai nostri inviati sul posto, ma di Fiat in borsa. Come molti di voi sapranno, perché molti ascoltatori sono azionisti della società del Lingotto, il 3 gennaio Fiat si è presentata in borsa, appunto divisa in due, perché la scorsa estate l'amministratore delegato Marchionne ha deciso di dare il via libera a quell'operazione di separazione delle attività industriali del gruppo, della quale si parlava da anni e che si è definitivamente concretizzata in questi mesi. In questo spezzatino il gruppo torinese ha deciso di separare appunto la divisione auto confluita nella Fiat SPA dal resto delle attività, tra cui Iveco e Case New Holland, quindi i trattori, i furgoni, e fin qui tutto bene, con l'eccezione del debutto in borsa del 3 gennaio, che, lo ricorderete, ha generato molta confusione, al punto che in molti lo ricorderanno perché è stata una partenza proprio all'insegna della fibrillazione in quella giornata, una partenza dell'anno all'insegna della fibrillazione. Non è stato possibile attribuire dall'inizio delle contrattazioni una valutazione corretta dei prezzi dei due titoli. L'unico riferimento che si aveva a disposizione era il prezzo di chiusura dei titoli Fiat dell'ultima giornata del 2010, i famosi 14,53 euro, ma naturalmente non poteva essere un valore spezzato esattamente in due, perché questo prezzo, per attribuirlo alle nuove azioni, e come potete immaginare anche presso le banche c'è stata una grande difficoltà nel prestare un'adeguata assistenza alla clientela. Noi oggi ripercorreremo l'accaduto e cercheremo appunto di dare lettura anche alle domande degli ascoltatori, a tutte quelle domande che si sono fatti gli investitori, che comunque per fortuna hanno ben poco da lamentarsi, perché si saranno largamente consolati grazie al rialzo molto sostenuto che i due nuovi titoli Fiat hanno segnato dal debutto fino ad oggi, anche se rimane ancora il problema di quegli azionisti che avevano in carico le Fiat vecchio formato e ancora oggi sono in difficoltà nel calcolare minusvalenze o plusvalenze realizzate a seconda del momento in cui appunto i vecchi titoli sono stati acquistati. Quindi un tema per molti magari non molto interessante, ma crediamo invece stamattina di dover in ogni caso fare un po' di chiarezza, speriamo, sarà comunque, ritengo, anche abbastanza complicato per coloro che sono interessati all'argomento. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. I nostri interlocutori di questa mattina, abbiamo raccolto l'adesione di 3 analisti finanziari, io li saluto e li ringrazio. Intanto 2 colleghe del Sole 24 Ore, Antonia Conti e Maria Adelaide Marchesoni dell'ufficio studi del Sole 24 Ore. Maria Adelaide è già stata spesso con noi, nella responsabile dell'ufficio studi. Ciao Maria. Buongiorno, ciao a tutti e buongiorno ai nostri ascoltatori. E buon anno anche ad Antonia Conti. Ciao. Grazie. Antonia, buongiorno. Buongiorno. Al telefono invece abbiamo Andrea Catapanna, analista dell'ufficio studi di Consultic, che è una società di analisi indipendente. Catapanna, buongiorno e grazie di essere intervenuta a Salva Danaio. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Tra l'altro, a loro ho consegnato proprio una lettera di un azionista che ci è arrivata qualche tempo fa e ho chiesto loro appunto di studiare le domande che questa persona ci poneva per capire se ne riuscivamo a venire a capo. Allora, il numero verde per i vostri interventi ve l'ho dato, vi ricordo che ci potete anche scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di Fiat in borsa, andiamo a vedere la borsa complessivamente stamattina come si sta comportando. Tra l'altro, proprio il mercato automobilistico e i titoli del settore auto si confrontano con i dati delle immatricolazioni europee del 2010, che si è appreso questa mattina, hanno segnato una flessione del 4,9% complessivamente. Per Fiat le immatricolazioni sono risultate in calo in tutto l'anno del 17%, con una quota di mercato che è scesa al 7,6% dall'8,7% dell'anno precedente. L'Italia è uno dei paesi in cui si è verificato il calo maggiore di immatricolazioni in tutto l'anno, seguita appunto dalla Spagna, che ha visto un calo del 24%. Questo è un tema. La borsa è poco mossa oggi, meno 0,3% per Parigi e Francoforte. In realtà c'è un calo più consistente a Londra, che perde lo 0,75%, Milano meno 0,14%. I titoli che oggi segnano la prestazione migliore sono Atlantia, la ex Autostrade, più 3,35% per il gruppo. Stamattina si è appreso che i soci spagnoli di Abertis hanno deciso di vendere presso investitori istituzionali appunto la loro quota al 6,68% attraverso una procedura che si definisce accelerata. Il titolo a quanto pare ne beneficia a Piazza Affari. Poi UbiBanca più 3,25%, Ansaldo più 1,91%, Buzzi Unicem più 1,86%, Terna più 1,36%, Finmeccanica più 1,07%, le Fiat, le SPA più 0,96%, le Industrial segnano un leggero ribasso, anzi adesso perdono mezzo punto, i cali più marcati, Fondiaria, meno 5%, arrivano le prese di profitto sul gruppo dopo aver spiccato il volo negli ultimi giorni, Bulgari meno 2,70%, Tenaris meno 2,59%, Banco Popolare meno 2,46% per completare la rosa Fiat, Exor meno 2,41%, euro su dollaro a 1,3376, ieri l'euro ha toccato, anzi stamattina ha riattoccato di nuovo, l'ha ritoccato la soglia di 1,34 finendo a 1,34,57. Per la borsa di oggi è tutto, adesso invece in borsa ci rimaniamo per parlare del caso Fiat. L'esordio è stato positivo a Piazza Affari per le debuttanti Fiat Industrial e Fiat SPA, nate dalla scissione del vecchio Lingotto. Nella prima seduta del 2011, il prezzo sommato dei due nuovi titoli è risultato infatti più elevato rispetto al valore delle azioni della vecchia Fiat, 16,025 euro contro l'ultimo prezzo di 15,43 euro, segnato venerdì 30 dicembre, prima della scissione. In particolare, Fiat SPA, dunque il ramo auto, ha guadagnato il 4,91% rispetto ai 6,696 euro del prezzo di riferimento rettificato al 30 dicembre 2010. Fiat Industrial è salita invece del 3,05% a 9 euro contro gli 8,734 euro del prezzo rettificato. Nei giorni precedenti al debutto, analisti e operatori si erano divisi sui valori dello scorporo con stime molto divergenti. È stata Borsa Italiana poi a scendere in campo, ricostruendo i prezzi di riferimento del 30 dicembre, come se i due titoli fossero già stati separati. Ma se da un lato Piazza Affari ha premiato l'operazione anche nei giorni successivi, permane qualche incertezza tra i piccoli soci dovuta al fatto che le banche stanno attribuendo un valore di acquisto prescissione non definito, scegliendo apparentemente di caricare minusvalenze o plusvalenze totali su una sola azione a scapito dell'altra. E quindi gli aspetti da chiarire sono tanti, bisognerebbe interpellare qualche responsabile, qualche ufficio titoli di banca appunto, però qui come potete ben capire queste figure professionali si sbilanciano con grande difficoltà su questo argomento. Limitiamoci ad analizzare un po' quello che è successo dal punto di vista anche delle, così, dei bilanci e delle competenze anche degli analisti finanziari che abbiamo con noi questa mattina. Allora, tra l'altro ci sono già degli ascoltatori che scrivono chiedendoci, indicandoci i prezzi di carico del titolo che hanno, che cosa conviene fare. Come sapete bene, non diamo per scelta, ma anche per obblighi, nessuna indicazione, nessun suggerimento di investimento a nessuno, per cui chiaramente queste scelte, se comprare o vendere un titolo, le dovete fare individualmente, ovviamente sulla base delle vostre scelte di investimento tradizionali, delle esigenze delle vostre famiglie, per cui quello che vi possiamo dire è sulla base degli studi che i nostri analisti fanno e se ritengono, magari se fino a questo momento i titoli di riferimento abbiano corso più o meno tanto, se ci sono altre prospettive di crescita, per cui sulla base di quello poi orientatevi come meglio credete. Allora, comincio con Antonia Conti, quindi le do il benvenuto, perché magari vale la pena, Antonia, fare un po' di cronistoria rispetto a questa operazione che ha portato a questo famoso benedetto spin-off dell'inizio dell'anno, quindi una divisione, certo, una separazione. E, tra l'altro, a giudicare dalla reazione di borsa, molti hanno detto, ma insomma, sembrava un'operazione decisa il giorno prima, la si conosceva invece dalla scorsa estate, sì, per cui forse tutto quello che è successo non ha avuto tantissima ragione di accadere, ma questa è un'altra storia. Che cos'è uno spin-off? Dunque è una, diciamo, una separazione delle attività che fanno capo a un gruppo. Specificatamente per Fiat, l'assemblea ha approvato il 16 settembre scorso la scissione delle attività del gruppo in due business separati, proprio con la finalità di fornire autonomia e flessibilità adeguate alle diverse logiche industriali e finanziarie dei diversi business, perché ricordiamo hanno anche delle dinamiche di mercato diverse, delle dinamiche competitive competitive diverse, anche dei livelli di investimento diversi, i vari settori che erano all'interno di Fiat. Per cui diciamo l'operazione ha avuto anche la finalità di favorire il processo di crescita anche attraverso degli accordi che poi appunto abbiamo visto con l'auto, con Chrysler, e anche consentire una maggiore visibilità sia appunto delle strategie che dei risultati finanziari, e quindi essere anche maggiormente apprezzate dal mercato, valorizzate pienamente. Per cui sono nate Fiat SPA, che comprende appunto le attività auto, la partecipazione in Chrysler, Ferrari, Maserati, le società dei componenti Magneti Marelli, Comau, Texit, e una parte delle attività passeggeri e veicoli commerciali di Fiat Powertrain Technologies, mentre a Fiat Industrial sono state assegnate Iveco, Case New Holland, quindi macchine agricole di movimento terra, e le attività industriali e marine sempre di Fiat Powertrain Technologies. Le attività diciamo di Fiat Industrial sono state valorizzate a valore di libro, cioè le partecipazioni che sono state assegnate a Fiat Industrial erano il valore di libro delle stesse, per un valore netto di 3.750 milioni. Questo come si traduce nella quotazione del titolo in borsa, questo ragionamento? No, è per dire come la storia, come si è creato anche il capitale sociale pertanto il capitale sociale di Fiat SPA post scissione è stato ridotto, diciamo che i 3.750 milioni, questo valore, sono stati in parte dedotti dal capitale sociale e dalle riserve. Pertanto il capitale sociale di Fiat, chiamiamola post scissione, è stato ridotto attraverso la riduzione del valore nominale, diciamo da 5 euro a 3,5 euro, mentre il capitale è stato creato, il capitale di Fiat Industrial, per 1.913 milioni, con un valore nominale delle azioni di 1,5 euro. Ricordiamo che entrambe le società hanno avuto lo stesso identico numero di azioni, sia per quanto per entrambe per tutte e tre le categorie, sia ordinarie, di risparmio e privilegiate. Pertanto agli azionisti Fiat, antecedente l'operazione, è stata assegnata senza alcun esborso azioni Fiat e Fiat Industrial nella stessa misura e nella stessa categoria di quelle possedute antecedentemente l'operazione. Alzo bandiera bianca, perché devo dire che seguire questi discorsi a me risulta largamente complicato, peraltro già sentendo appunto Antonia Conti, che ci ha spiegato un po' il presupposto anche di tutta l'operazione finanziaria di cui parliamo questa mattina. Siamo arrivati già al termine della prima parte di Salvadanaio, adesso il tema a capire, una volta spiegato lo spin-off e la decisione appunto industriale, capire cosa è successo il 3, che cosa sta succedendo adesso e se in qualche maniera oggi gli azionisti riescono a calcolare un po' meglio appunto i valori delle società che hanno in portafoglio e se ne sono a distanza di 15 giorni venuti a capo. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, magari da queste riprendiamo subito dopo la nostra prima pausa. E allora stavo tentando di orientarmi un po' meglio nella prima parte della risposta della nostra Antonia Conti e cercavo appunto di capire se potessimo fare un esempio molto banale ai nostri ascoltatori per capire sulla base del portafoglio che avevano prima della scissione che cosa si trovano adesso, a prescindere dalle quotazioni, anche proprio in termini di numeri di azioni. Antonia, io ero un azionista di Fiat ordinarie, lingotto, prima della scissione, avevo 100 azioni, quante me ne trovo della SPA oggi e delle Industrial? Io, avendo 100 azioni del vecchio, chiamiamolo, gruppo Fiat, attualmente mi ritrovo 100 azioni Fiat SPA e 100 azioni Fiat Industrial. Ecco, naturalmente con un valore separato. Le ordinarie valevano, prima ho dato 14,53, ho fatto confusione con numeri, avevo un valore dell'azione che al 31 dicembre era di 15,43 euro. Il 3 gennaio che cosa si sono trovati in queste 100 e 100 i nuovi azionisti, gli azionisti delle Fiat nuovo formato? Sì, Facendo banalmente la somma matematica dei prezzi di riferimento delle due azioni al termine della giornata. Perché il punto è questo, esatto, al termine della giornata, al termine della giornata non c'è stato all'inizio della giornata. No, si sono ritrovati 16 euro, pertanto con un incremento di quasi il 4%, di un 3,9%. E teoricamente quanto valevano le due società? No, teoricamente praticamente quanto valevano? Al 30 di dicembre, quindi l'ultimo giorno di contrattazione, valevano appunto 15,43. Ma post scissione, quindi una volta hanno ottenuto praticamente Industrial ed SPA al termine della prima giornata di contrattazioni, singolarmente, le società singolarmente, Fiat post scissione aveva un prezzo di 7 euro. Mentre Fiat Industrial aveva un prezzo, si parla sempre di ordinarie, di 9 euro. Esatto, perché poi c'è tutta anche la categoria delle azioni, esatto, di risparmio, delle privilegio. Maria Adelaide Marchesoni, poi vengo anche da lei, Catapanne, non mi sono dimenticata perché l'ho fatto anche studiare per una settimana su questo caso. È corretto quello che è successo il 3 gennaio la mattina? Poi chiaramente qua vi chiedo anche un po' un giudizio personale in relazione anche al lavoro che fate tutti i giorni, appunto, che non si sia potuti partire con un prezzo di riferimento di questi due titoli nuovi. Io lo trovo veramente... direi assurdo questo comportamento, anche perché i valori si sapevano, l'operazione si conosceva e quindi non è che puoi entrare in borsa e dire adesso ho due entità diverse e cosa capita non lo so, e neanche che prezzo se quel giorno voglio fare un'operazione. Io lo trovo veramente cioè da far spiegare da qualcuno che è un organo di controllo anche. Certo, magari li interpelleremo più avanti, sì, quando ma si sarà anche fatta le banche stesse dare la colpa alla persona che poi viene contattata telefonicamente dal cliente. Lo trovo ingiusto per il suo lavoro. Anche perché è successa poi una cosa strana, che effettivamente ogni banca, abbiamo un paio di casi, si è comportata diversamente nel calcolare appunto questi prezzi teorici. Prezzi teorici, poi peraltro anche sulle minusvalenze o plusvalenze realizzate, effettivamente ogni banca ha anche deciso di caricare o sulle industrial o sulle SPA appunto in maniera differente effettivamente le ipotetiche o anzi pratiche minusvalenze o plusvalenze realizzate a seconda di quando si aveva in carica appunto il titolo vecchio formato ancora. Andrea Catapanna, chiedo un giudizio se vuole anche a lei, perché io in realtà, parlando appunto con Catapanna prima della trasmissione, lui mi diceva non sono poi così scandalizzato rispetto a quello che è successo la mattina del 3 gennaio, perché è stato, secondo il mio punto di vista, più o meno tutto regolare. Mi ricordo male o mi sono... Diciamo che da un punto di vista fondamentale valutare le due società è necessario prendere in mano i bilanci e quindi fare una valutazione attenta, quasi una perizia di tutti gli asset trasferiti, anche per quelle partecipazioni. Mi sembrava un'operazione così... Si poteva quantomeno definire un range di prezzo indicativo tra il quale poteva muoversi l'azione in sede di prima apertura. Questo si poteva fare sicuramente. Nel modo in cui è stato fatto si è detto il mercato decida qual è il prezzo corretto dell'azione senza dare poi nessun tipo di riferimento. Prendendo il documento informativo di Fiat non si evince da nessuna parte una valorizzazione precisa delle due società, si limita a dire quali sono le parti scorporate, vengono dati i dati di bilancio, poi sta magari a un singolo analista applicare delle diverse metodologie operative e definire un valore, però sappiamo che tra analista ed analista ci può essere tranquillamente una metodologia che fa ballare il prezzo almeno in un range. E quindi io dico anche, non so cosa ne pensate voi, adesso i titoli hanno corso tanto entrambi dall'inizio dell'anno e quindi chiaramente magari la situazione stuzzica un po' meno anche magari gruppi di piccoli azionisti a voler sollevare l'attenzione delle autorità di controllo. Io avrei voluto vedere se fossero crollati, Maria Adelaide. Se anziché avere questo prezzo, partire da un prezzo che e poi si è verificato un upside di quello che un rialzo di quello che erano i valori precedenti, se invece a quel punto ci fosse stata una perdita, non so come il mercato avrebbe potuto reagire e i anche i singoli risparmiatori. Anche perché poi è giusto fare i calcoli basandoci sui valori che sono nel prospetto informativo, però è una diciamo una platea abbastanza ridotta di persone che sa fare questi calcoli. Quindi chi si ritrova il giorno dopo con un titolo e la sua situazione del portafoglio titoli si domanda come mai, che cosa ho fatto, anche perché non ci dimentichiamo che quella mattina, lo ricorderete bene anche voi due, per appunto le difficoltà di calcolare i prezzi delle due nuove ZIAT è andato in tilt completamente tutta Borsa Italiana e non è stato possibile calcolare neanche la variazione percentuale di tutto l'indice fino al primo pomeriggio, per cui effettivamente ci sarebbero tanti aspetti da esplorare. Ma noi rimaniamo a Fiat con la domanda di Andrea da Torino. Andrea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei farvi questa domanda. Io ho due pacchetti di Fiat in due istituti di credito differenti. Le due banche hanno utilizzato due metodi diversi per calcolare il valore di carico. Che è quello che è successo anche ad un azionista che ci ha scritto, infatti poi dopo volevo proprio anche leggere questa mail. E quindi Andrea, ci può spiegare bene come si sono comportati? Allora, in un caso è stato calcolato, il valore di carico è stato rettificato tramite un fattore K, me l'hanno definito, che è nato dal rapporto delle quotazioni al 3 gennaio tra Fiat SPA e Fiat Industrial. E con quel fattore 0,40 qualcosa sono stati rettificati i prezzi di carico. Nell'altro caso invece è stata considerata il valore nominale dell'azione antescissione di 5 euro e quindi 3,50 euro per le ordinarie, per le Fiat SPA e 1,50 euro per le Fiat Industrial, quindi 70% e 30%. Tra l'altro lei, Andrea, avrà ovviamente aperto questi dossier titoli in momenti diversi e quindi acquistato anche i titoli nelle due banche in momenti diversi. No, perché originariamente il pacchetto era unico ed è stato scisso un po' di mesi fa, è stato trasferito. Una parte di questo pacchetto è stato trasferito in quest'altra banca. Quindi paradossalmente io in questo momento mi trovo nella necessità di dover riunificare questo pacchetto azionario. Non sanno le banche, le rispettive banche non sanno come calcolarmi i prezzi di carico e la cosa paradossale è che io magari rischio di avere su Fiat SPA una fortissima plusvalenza e su Fiat Industrial una minusvalenza e non è corretto. Infatti ed è il punto cruciale appunto che ci sollevano molti ascoltatori e quindi Andrea magari noi potessimo darle una risposta, qua è veramente un ginepraio. Però insomma io credo che qualcuno poi lo potrà fare anche con un po' di ritardo, prendersi del tempo, ma magari nel caso, nella situazione di Andrea ci si trovano, non dico perché in tante persone debbono magari unificare pacchetti come stabilire un fattore di rettifica delle quotazioni, cioè, potrebbe essere un criterio unico come fattore di rettifica. Cattapanna, lei che ne pensa del caso che abbiamo ascoltato fino ad ora? Beh, l'intermediario che ha applicato il fattore di rettifica ha seguito la procedura corretta, quella indicata da Borsa Italiana e dall'AIAF, quindi l'Associazione degli Analisti Finanziari. Quindi magari un riferimento ce l'abbiamo, basterebbe che tutti seguissero a questo punto, poi che sia stato giusto, corretto, che i fattori di rettifica siano stati comunicati con ritardo, tutto quello che vogliamo, però a questo punto il riferimento c'è, quello va preso dunque. Esatto, anche perché tutte le serie storiche dei titoli, che siano risparmio, ordinario, privilegiate, sono state rettificate secondo questo fattore di rettifica, quindi ogni possibile riferimento di Fiat, se volessi andare a vedere una quotazione del passato, a quel punto è stata rettificata attraverso questo valore, quindi se voglio fare un qualsiasi confronto, mi devo attenere a questo valore comunicato. Allora, io ricordo ancora il numero verde per le domande dei nostri ascoltatori, 800 24 00 24, oppure scriveteci al 349-238-6666 o a salvadanaio@radio24.it. Non ci dimentichiamo che noi fino ad ora abbiamo limitato il nostro ragionamento ai titoli delle azioni ordinarie, ma credo che tutto lo stesso ginepraio si sia creato anche per i titoli di altro rango, Antonia Conti, per le privilegio, per le risparmio. Allora, le industrie hanno anche la categoria privilegio e risparmio, le ordinarie, quindi le SPA hanno le privilegio e le risparmio non convertibili. Esatto. Stesso problema? Sì, si è creato lo stesso problema. E quindi insomma anche qui probabilmente adesso applicare i valori di rettifica, anche per questi titoli evidente, Borsa Italiana ha dato valori di rettifica ovviamente che devono essere presi a riferimento. Infatti, quindi i diversi comportamenti dei diversi istituti di credito non hanno ragione. Allora, vi leggo, abbiamo ancora un minutino di tempo prima di andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Questo azionista ci scrive appunto questo: possiedo titoli di due società indipendenti l'una dall'altra ora e praticamente non sto andando avanti, intanto per poter velocizzare porto il mio esempio in qualità di cliente, ci cita la banca, per facilità di ragionamento parliamo di un pacchetto di 1000 azioni. Prima della scissione sono possessore di 1000 azioni Fiat Risparmio, di cui il prezzo medio di carico è pari a 9,30 euro, ultimo valore circa 12,50 plus valenza del 30%, questo è il suo caso. Dopo la scissione, come ci diceva prima anche Antonia, possiedo 1000 azioni Fiat Risparmio e 1000 Fiat Industrial. Vado a controllare sul sito della banca che mi attribuisce questi prezzi medi di carico. Fiat Risparmio 6,42 a fronte di una quotazione di 6,15. Le Industrial Risparmio 2,78 a fronte di una quotazione di 7 euro. Quindi la mia plusvalenza prescissione, che era del 30%, adesso si evidenzia in questa maniera. Sulle Risparmio meno 4,5, sulle Industrial più 150%. E lui chiaramente pagherà anche una tassazione su questo 150%, Maria Adelaide. Nel momento in cui sì, fa le sue operazioni, chiamiamole così, sì. Cioè, non, lui chiede, è corretto scaricare totalmente su Fiat Industrial plusvalenze e minusvalenze precedenti sulla scissione, cioè caricarle solo su un unico titolo? No, se abbiamo visto che ci sono dei fattori, cioè il fattore di rettifica sta a significare che il valore delle azioni avranno dei valori diversi e quindi ricalcolare la base di partenza del suo valore. Si può ricalcolare regolarmente anche la minusvalenza, anche la plusvalenza. Catapanna, ci conforta in questo nostro orientamento o la pensa in maniera diversa? No, bisogna applicare un fattore di rettifica che a questo punto è diverso rispetto alle ordinarie. All'ordinario, sì, certo, sì, scusi. Che è 0,48 e rotti, diciamo. Quindi i 9,30 del prezzo di carico precedente, prescissione, va moltiplicato per 0,48, si ottiene che abbiamo una Fiat Risparmio post scissione con prezzo di carico 4,46, per differenza si ricava il prezzo di carico di Fiat Industrial Risparmio, che quindi è 4,83, la somma delle due componenti mi dà 9,30 di prima. Ma mi scusi, ma perché queste cose le sanno gli analisti finanziari dentro le banche, dove ci sono fior di professionisti che naturalmente si occupano dalla mattina alla sera di gestire i titoli in possesso appunto di azionisti di qualunque tipo di società? Voglio dire, il tema del valore di rettifica, del coefficiente di rettifica, non penso che sia un concetto che questi personaggi che lavorano lì dentro non debbano conoscere. Catapanna, che io so che le chiedo un giudizio, ma che ne dice? Beh, diciamo, sicuramente ci sarebbe dovuto stare più trasparenza e chiarezza quando sono stati comunicati, perché di ritorno dalle vacanze molti si sono ritrovati diciamo con questo non a caso di titoli. E quindi insomma, poi è andata bene, voglio dire, quindi tutto sommato dicevamo noi, perché poi titoli se il prezzo fosse sceso magari adesso insomma il polverone sarebbe stato ben diverso. Ci fermiamo per i suggerimenti per chi è in viaggio, poi andiamo anche adesso guardiamo avanti alle prospettive per questa società, perché c'è chi ovviamente ci chiede anche lumi su questo. E insomma, abbiamo capito che l'oggetto del mistero di questa puntata è il fattore di rettifica, che probabilmente magari qualche giornalista lo ha ricevuto il 3 gennaio sulla base delle indicazioni date da Borsa Italiana, però insomma il tema era che quella mattina, quel giorno, dovevano averlo gli operatori degli uffici titoli delle banche. E insomma, vabbè, speriamo che nel frattempo questi documenti nei luoghi giusti siano arrivati e che adesso gli azionisti possano trovare appunto delle risposte più corrette quando telefonano ai call center delle banche per chiedere a questo punto che valore ha il mio portafoglio di titoli Fiat che si è spezzettato in questo modo. Maria da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Senta, io volevo solo chiedervi per cortesia una delucidazione. Io ho oppure avevo delle Fiat privilegiate. Adesso ho ricevuto qui naturalmente una lettera dalla banca dove mi dice che li hanno divisi, hanno fatto metà e metà. Sì. Ma metà e metà con che cosa? Rispetto al numero che lei aveva di azioni. Cioè lei ha... Se Fiat Industriale, Powertrain, quelle cose lì, che cosa? Ecco, se è tutto il tema, Maria, se lei, di cui stiamo parlando dall'inizio, si è accorta all'inizio dell'anno che c'è stato questo spin-off di Fiat, no? Si è divisa in due. E quindi anche tutte le azioni che ogni azionista aveva hanno fatto la stessa cosa, hanno seguito lo stesso destino. Però lei dice: non ci capisco tanto. Se ne aveva 100 delle sue vecchie Fiat come gruppo, adesso si ritrova 100 Fiat auto, quindi gruppo auto, e altre 100 Fiat dell'industrial. Privilegio sempre della categoria che lei aveva in portafoglio. Tra l'altro, che categoria è Maria Adelaide, la privilegio? Ha delle, ha dei, diciamo, nel calcolo dei dividendi ha delle, dei valori maggiori rispetto, adesso non mi ricordo in che percentuale, comunque rispetto alle ordinarie. Sono privilegiate. Sono privilegiate. Mentre poi la risparmio è ancora più privilegiata nel pagamento, anche nel riconoscimento della cedola. Catapanna voleva supportare ulteriormente Maria? O abbiamo dato la risposta corretta? Comunque in tema è, se aveva le privilegio, adesso ne ha di due tipologie. Sì, anche in questo caso abbiamo un fattore di rettifica specifico. Anzi, prenda nota, Maria, infatti, che così... Il fattore di rettifica da applicare è 0,478. È che però Maria addirittura non conosceva neanche la natura dell'operazione di cui sono state protagoniste le sue azioni, i titoli di cui era in possesso, quindi povera dirle adesso anche utilizzi questo fattore di rettifica per calcolare appunto il suo portafoglio, un po' complicato. No, quindi andare in banca e controllare questo conto, se mi immagino il bancario che dice ma cos'è il valore di rettifica, speriamo di no. Allora ci stanno chiedendo in tanti, sì vabbè, allora ammettendo che tutti abbiano capito lo spin-off e che oggi abbiano avuto modo di capire che devono utilizzare questo valore di rettifica per calcolare il loro portafoglio appunto a quanto ammonta, detto questo, questi titoli dall'inizio dell'anno voi vi siete portati anche le percentuali, io non li ho creati, hanno corso tantissimo, per cui mentre, come dire, questa operazione è stata fatta anche per capire se il mercato apprezzasse di più un certo business di Fiat piuttosto che l'altro, anche se le cose come stavano andando un po' le conoscevamo, in realtà sembra aver premiato enormemente entrambe le azioni. Maria Adelaide, hanno premiato dall'inizio dell'anno molto più l'auto, sì, sulla, diciamo, sulla scia delle intese che il gruppo stava attuando, stava portando avanti con Chrysler. Quindi dall'inizio dell'anno l'ordinaria della Fiat, Fiat gruppo auto 10,82%, mentre l'industrial ha fatto il 7,78%. E buttalo via. No, certo, no, assolutamente. Però se quindi praticamente se le dovessimo riaccorpare di nuovo, da 15,43 euro, che era l'ultimo valore del 31 dicembre, oggi 16 quanto verrebbe? Le ordinarie, dunque. Facciamo io il prezzo somma, di riferimento, sì, al 3 gennaio avevo 16,02, il prezzo al 3 gennaio, non oggi. Ah, vabbè, adesso avevo solo la percentuale. Ah, no, no, scusa, aspetta. No, no, prezzo di riferimento 7. E, facciamo 9,7 euro era stamattina l'industrial, 7,78 le ordinarie, 9,7, 16, 18 euro, euro da 15,43. 15,43, esatto, infatti. Ma che dire dell'auto? Che dire dell'auto? Io lo so che tu muori della voglia di sbilanciarti, farlo no, ovviamente con toni molto pacati, moderati. Vabbè, no, già bastava vedere i dati sulle matricolazioni esatto, stamattina. Infatti. E poi i target che sono stati dati, non so se magari anche poi sentiamo anche l'opinione dell'altra analista, sono target un po' ambiziosi per un settore che ha un'elevata ciclicità. Vi posso chiedere quanto conta il referendum di stamattina anche sulla quotazione del titolo? Perché non mi pare che ci sia grande... No, adesso no. Ma voi come analisti, per esempio, è un fatto però che tenete in considerazione anche quando valutate oppure no? Guardate esclusivamente il bilancio? No, sono elementi che bisognerebbe considerare anche, anche perché, voglio dire, dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato, quindi si presentano degli scenari completamente diversi. Certo. Allora, target ambiziosi Per l'auto riferite a un settore con elevata ciclicità, mentre l'industrial è l'auto che brucia ancora cassa, quindi richiede tanti soldi, detta proprio in parole molto povere. Mentre l'industrial ha dei target anche loro buoni, meno definiti, ambiziosi forse, e può fare alleanze, però non brucia cassa ma produce risorse, il cash flow esattamente, e quindi se guardiamo questi dati fondamentali dovrebbe essere più premiata la componente industrial che la componente auto. E invece così non è stato, almeno fino stato, a questo fino momento adesso, esatto. Sai, però il discorso Chrysler ha fatto tante ha elaborato tante idee. Certamente, ecco, questa volontà di Marchion appunto di salire al 51% dell'azienda e americana. Nelle quotazioni lo vedi questo. Catapanna, lei oltre ad aver studiato l'accaduto degli ultimi 13 giorni per noi, così ha dato anche un'occhiata alle prospettive delle società, hanno corso esageratamente entrambi i titoli fino a questo momento, ci sono ulteriori prospettive, avremo un freno delle prese di profitto, qual è la sua valutazione? Allora, io aggiungerei un dettaglio. Sia per la Fiat Auto, quindi il business tradizionale, sia per la nuova Fiat Industria, abbiamo che le versioni risparmio e privilegio hanno corso molto di più rispetto all'ordinaria. Ma anche sulla scia, insomma, di una prospettiva di conversione in ordinarie, mi pare. Di solito questi titoli corrono per questo motivo. Potrebbe essere perché adesso il gruppo si ritrova, considerando anche la mamma, cioè Exor, del gruppo, la capogruppo, si ritrova con 9 titoli quotati, quindi le tre di Exor, le tre dell'Industria. E quindi, insomma, un'idea di razionalizzazione non dovrebbe essere peregrina? Soprattutto, ecco, in questo senso potrebbe essere utile razionalizzare se si pensa a un'integrazione con Chrysler, se venisse quotata, perché io non penso che poi il mercato americano vada a creare altre tre azioni Chrysler quando sarà il momento, quindi mi aspetto nel 2011 comunque, con magari una conversione non sicuramente alla pari ma con un conguaglio in denaro, potrebbe esserci una conversione. E c'è da dire che le due tipologie di azioni quotavano, adesso il margine si è ridotto un pochettino, con uno sconto rispetto all'ordinaria molto sostenuto, quindi si è ridotta la forbice, e questa tendenza c'è stata anche nel 2010. Mettiamola così, che il movimento che abbiamo visto fino a questo momento è niente rispetto a quello che ancora potremo vedere, da quello che insomma avete in mente voi. Allora dovremo necessariamente magari ritornare più avanti su questi argomenti e speriamo di capire, appunto speriamo di avere anche la certezza da parte dei nostri ascoltatori che a questo punto le banche abbiano capito come calcolare questi due titoli. I valori di rettifica glieli manderemo noi. Maria Adelaide, 5 secondi perché devo chiudere. 5 secondi, il 27 gennaio se non ricordo male pubblicheranno i dati del quarto trimestre, quindi potrebbe essere un'occasione per ritornare qua a Salvadanaio. Adesso abbiamo la nostra rubrica previdenziale INPS, per saperne di più. È la nostra collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Vi stiamo presentando le parole della previdenza. La parola di oggi è doppia annualità. Quando il coniuge titolare di una pensione ai superstiti si risposa, perde la pensione, ma ha diritto alla cosiddetta doppia annualità, vale a dire un pagamento una tantum pari a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se vi sono figli superstiti che percepiscono la pensione. Per ottenere la doppia annualità, occorre presentare all'INPS una domanda con allegato il certificato di matrimonio. Se ci sono figli minori con titolari della pensione di reversibilità, essi hanno diritto a un aumento della loro quota. Salvadanaio termina qui, siamo in super ritardo. Io ringrazio infinitamente Maria Adelaide Marchesoni, Antonia Conti, Andrea Catapanna per essere stati con noi. Salutiamo con tanto affetto il fattore di rettifica che naturalmente non ci dimenticheremo mai più. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Auregi in assistenza tecnica. Salvadanaio torna lunedì. Buon fine settimana a tutti.